ricordare la situazione di Tibet, tuttavia è stato questi giorni è finito la marcia costruirsi il Tibet è una cosa che noi non facciamo mai, è protestare e denunciare. Noi indichiamo degli obiettivi, se a volte sembrano impossibili, poi ci si arriva, forse perché la politica vera è concepire il nuovo possibile, non continuare a raschiare la botte sfondata del vecchio possibile, e questa è la risposta che posso dare. Ma adesso la situazione del Tibet, l'idea di boicottare i Stati Uniti? Ma quella non è un'idea, quella è un riflesso. E allora ha ragione il Dalai Lama. Ha ragione il Dalai Lama, il problema non è quello di boicottare, non è quello di boicottare, insomma, mi viene da ridere, quelli sono 1.200.000.000 di persone retti da un regime comunista, fascista, eccetera, quello che vuole, ma in evoluzione. È unito per il momento grazie alle oppressioni, alle repressioni che fa, 1.200.000. Da quest'altra parte c'è una marmellata di stati nazionali ed altro. Quindi ha ragione il Dalai Lama, bisogna andare nel cuore del 1.200.000.000 per far vedere magari a quell'80-90% dei cinesi vale la pena di lottare per la libertà nel Tibet, in Cina e in Italia, tutto qua. Grazie. Prego.